Gli speciali di Radio 24. È Natale. Addobbiamo l'albero e accendiamo le luci. Non c'è posto come la propria casa per trascorrere il Natale. Una ricorrenza ricca di regali e feste che solo un burbero potrebbe odiare. Non è sempre semplice individuare il legame tra le tradizioni moderne e le usanze antiche. Cosa ha a che fare tutto questo con la nascita di Gesù oltre 2000 anni fa? Per i cristiani è in quel momento ricco di eventi che inizia la storia del Natale. Ma come facciamo ad avere notizie sulla nascita di Gesù? Nicola Denzel Lewis, Brown University. Nel Nuovo Testamento ci sono due fonti diverse che parlano della natività. C'è il Vangelo di Matteo e c'è il Vangelo di Luca. Non c'era legame tra i due, probabilmente neanche si conoscevano, ma grazie a loro abbiamo due punti di vista diversi. La cosa più logica è mettere insieme le due storie e tentare di ottenere un quadro completo della cosiddetta natività. Il Vangelo di Matteo ci racconta della stella di Betlemme e dei saggi, chiamati magi, che portano i loro doni al bambino Gesù. Ancora Denzel Lewis. C'è un valore simbolico in questi regali. I re magi portano dei doni molto preziosi per onorare questo bambino dalla nascita estremamente umile. Il messaggio per noi è che non si tratta affatto di una nascita umile, perché è appena nato un re. Si tratta del primo esempio di doni natalizi. Ma nessuno può dire a quando risalga davvero l'evento. Nessuno sa in che giorno sia effettivamente nato Gesù. I primi cristiani non festeggiavano i compleanni. Quindi, come si è deciso che Gesù è nato il 25 dicembre? Molto prima della nascita di Gesù, i romani già celebrano le loro feste pagane, soprattutto a dicembre. Sono proprio queste festività di fine anno a gettare le basi del Natale moderno. Stephen Gillon, Università dell'Oklahoma. Una festività romana era quella dei Saturnali, che iniziava il 17 dicembre. Il periodo di festeggiamenti poteva durare dai 3 ai 5 giorni, a volte anche 7. Era una specie di festa moderna, solo che indossavano le toghe. Nei Saturnali romani è già in uso lo scambio di doni, proprio come a Natale. Gli schiavi vengono festeggiati dai loro padroni. E per un giorno possono godere della libertà che manca loro nel resto dell'anno. Bruce Davis Forbes, autore di Christmas e Candid History. Poi c'era il Capodanno. I festeggiamenti duravano 5 giorni ed erano molto divertenti. Tra i Saturnali e il Capodanno, esattamente il 25 dicembre, i romani celebravano la nascita di un loro dio. Il dio Mitre e il dio Sol Invictus, Sole Invincibile, sono entrambi onorati il 25 dicembre. Poiché la data è vicina al solstizio d'inverno, lo stesso evento celeste viene celebrato dalle tribù del nord Europa. I romani accendono falò rituali e candele per respingere l'oscurità, dando origine alla moderna tradizione delle luci natalizie. Libby O'Connell, storica. Il solstizio d'inverno è il giorno più corto dell'anno. Quando ci svegliamo è ancora buio e inizia a fare buio già a metà pomeriggio. Non vediamo l'ora che torni il sole. I pagani di tutto il mondo celebravano il giorno più buio dell'anno e anche per i romani era un periodo fondamentale. Nel IV secolo il cristianesimo diventa la religione ufficiale degli antichi romani, ma i riti pagani, anziché essere banditi, vengono assorbiti. La Chiesa decide quindi di onorare la nascita di Gesù scegliendo una data prossima al solstizio d'inverno, il 25 dicembre. Ancora la storica O'Connell. C'era un motivo per cui Gesù Cristo è chiamato la luce del mondo ed è proprio l'associazione tra la sua nascita e il solstizio d'inverno. Il solstizio era già celebrato in molte religioni diverse ed ha aiutato a collocare la nascita di Gesù il 25 dicembre. Ma mentre la Chiesa continua ad assorbire le antiche tradizioni, emergono due diverse celebrazioni del Natale. Una religiosa e una un po' meno. Nicola Denzel Lewis, Brown University. Nelle chiese, il Natale era celebrato con un altissimo livello di solennità. La gente si radunava e accendeva le candele. Le cerimonie vere e proprie erano alla vigilia. Ma fuori dalle chiese, nelle case e nelle piazze cittadine, il Natale è caratterizzato da sempre maggiori eccessi, fino a che l'intemperante festa laica non arriva a surclassare quella religiosa, costringendo i riformatori a vietare la celebrazione contemporanea dei due Natali. Gli antichi avrebbero difficoltà a riconoscere il nostro Natale. Ma se pensiamo alle feste di secoli fa come idilliaci periodi di riposo, ci sbagliamo di grosso. Il Natale era eccessivo, sfrenato e divertente. Ancora Denzi Lewis. Nel Medioevo, nel 1400 e 1500, il Natale era davvero entusiasmante. I re parlavano dei grandi festeggiamenti dati per l'occasione. L'uso di scambiarsi i doni era molto diffuso e le tradizioni delle luci e del ceppo natalizio erano sempre più popolari. Per molti è anche un giorno solenne da trascorrere raccolti in preghiera. Entrambe le celebrazioni, quella religiosa e quella laica, hanno una propria musica, proprio come avviene oggi. Ancora Denzi Lewis. In chiesa c'erano gli inni, cioè una musica sacra cantata in latino. Gradualmente, dal XII secolo, si diffusero i canti natalizi che non erano in latino, ma in volgare, una lingua conosciuta da tutti. La gente amava cantare in compagnia e ben presto i canti natalizi scomparvero del tutto dalle chiese. Ma dai canti natalizi medievali all'ebbrezza, il passo è breve. A ogni porta i cantastorie chiedono in cambio una coppa di vino, ubriacandosi di più a ogni verso. Ancora Denzi Lewis. Il Natale non sembrava affatto una festività religiosa troppo solenne. Era qualcosa di diverso. In realtà era ciò che era sempre stata, una specie di occasione per festeggiare e divertirsi. Ma nel XVII secolo i riformatori religiosi manifestano la loro insofferenza per le intemperanze laiche. Nel Natale c'è troppo divertimento. Così decidono semplicemente di metterlo al bando. Ma come può il Natale essere soppresso? Ancora Denzi Lewis. Ci fu una specie di reazione contro il Natale. I gruppi protestanti non avevano alcun desiderio di festeggiare, anzi ripudiavano il Natale in quanto invenzione cattolica, un eccesso che la Chiesa aveva autorizzato. Per un certo periodo il Natale viene messo al bando anche in Inghilterra, ma senza troppo successo. Dopo pochi anni si riaffaccia una versione più contenuta della stessa festa. Ma durante il XVII secolo il Natale attraversa un periodo difficile anche nel Nuovo Mondo. I coloni inglesi osservanti guardano alla ricorrenza con molto sospetto. Tra le popolazioni europee che arrivano in America, la nuova colonia puritana del Massachusetts è quella più ostile in assoluto. Così, nel 1659, il Natale viene bandito. Donna Curtin, Plymouth Antiquarian Society. I puritani del New England erano al corrente delle celebrazioni pagane per il solstizio d'inverno e volevano evitare a tutti i costi un risveglio di quelle tradizioni. Uno di quei puritani definì il Natale un naufragio della castità. Un altro, a Boston, disse che gli uomini disonoravano Cristo più in quei 12 giorni di festeggiamenti che nei 12 mesi dell'anno. I coloni iniziano a distribuirsi sulla costa e nella regione mid-atlantica sono molto meno conservatori. A metà del 1700 le loro tradizioni natalizie sono quelle importate dall'Europa. Molti però festeggiano la ricorrenza con le stesse intemperanze del passato. Edward O'Donnell, College of the Holy Cross. In Virginia chi festeggiava lo faceva con una normale cena tra amici. Ci sono moltissime documentazioni dell'epoca coloniale e dell'inizio della Repubblica in cui si racconta di queste persone radunate per la cena di Natale in casa di qualche signore benestante, quando all'improvviso si presentano alla porta dei malfattori che pretendono da bere e da mangiare. Entrambe le tradizioni sono ancora lì. Man mano che l'America cresce, anche le tradizioni natalizie si trasformano. E i ricchi lanciano una crociata contro i festeggiamenti scomposti. Stephen Gillon, Università dell'Oklahoma. Gli americani appartenenti al ceto medio volevano che i festeggiamenti del Natale passassero dall'esterno all'interno delle case. Temevano che le loro proprietà venissero distrutte e avevano paura di perdere i loro possedimenti. Quindi non c'era altra soluzione che togliere dalle strade queste manifestazioni. Per loro il fulcro del Natale doveva essere la famiglia e la casa, con riunioni private che avvenivano nel focolare domestico. Il tentativo avviene in modo più intenso e più vincente in una New York City in rapida espansione. I suoi fondatori, gli olandesi, abbracciano già le tradizioni natalizie legate al focolare. Ma è un newyorkese, un professore universitario e poeta talentuoso, a cambiare per sempre il volto del Natale. Gli speciali di Radio 24. New York City, la grande mela, la città che non dorme mai, il luogo di nascita del Natale. È vero, New York City ha influenzato il Natale laico che celebriamo oggi, più di ogni altra città al mondo. E il merito è da attribuire a due talentuosi cittadini di New York nati e vissuti qui nell'Ottocento. Riprendendo gli usi natalizi del vecchio mondo, hanno plasmato i festeggiamenti americani moderni e hanno contribuito a delineare l'immagine odierna del vecchio San Nicola. La New York che loro conoscono è una grande metropoli, una città capace di tenere il passo con la rivoluzione industriale che sta trasformando l'America dalla sera alla mattina. Stephen Gillon, Università dell'Oklahoma. Nell'Ottocento, New York era una città che viveva il cambiamento. C'era il boom della popolazione, nascevano nuove industrie e nuovi negozi che avrebbero poi costituito le fondamenta di ciò che è oggi il business natalizio. Ma non era solo una città ricca di cambiamenti, era anche il centro di nuove idee. Clement Clark Moore, professore newyorkese di letteratura orientale e greca, ha un'idea che cambierà il Natale per sempre. Nel 1822 scrive una poesia di 56 versi intitolata La visita di San Nicola, meglio nota oggi come La notte prima di Natale. Quasi da solo, Moore crea la visione americana moderna del Natale. Libby O'Connell, storica. La cosa interessante della poesia di Moore è che racchiude diverse tradizioni dell'inizio del XIX secolo, ma allo stesso tempo rappresenta anche la fantasia personale del suo autore. La poesia di Moore è davvero pionieristica, è un momento di svolta nella celebrazione del Natale. Il soggetto di Moore è il Babbo Natale che conosciamo oggi. La sua ispirazione? Due personaggi natalizi leggendari del vecchio mondo. Uno è San Nicola, un vescovo del IV secolo diventato famoso per la distribuzione di regali nelle calze. L'altro è Sinterklaas, la versione olandese di San Nicola. Sinterklaas si confonde con il mito di Odino, il dio pagano della festa di Yule, che vola in cielo con un cavallo a 8 zampe. Edward O'Donnell, College of the Holy Cross. Fino a metà del XIX secolo, Babbo Natale aveva forme e dimensioni diverse. Arrivava su una barca, su un cavallo, su una slitta. E questi miti si sono diffusi in particolare a New York City. Entrambe le leggende del vecchio mondo sono ricche di dettagli, molti dei quali esclusi da Moore. Un personaggio omesso è il compagno minaccioso e oscuro di San Nicola. Una sorta di diavolo che punisce i bambini cattivi. Ma il San Nicola di Clement Clark Moore incarna solo il bene. Moore dà molte nuove caratteristiche a Babbo Natale. Gli fa indossare un cappotto americano, gli dà una pipa e non lo raffigura come un prete, ma come un folletto allegro con le fossette e gli occhi lucenti. Sulla schiena porta un sacco pieno di giochi per i bambini della casa. Il Babbo Natale di Moore si sposta con una slitta volante trainata in cielo non da un cavallo, ma da 8 renne. Ognuna con un proprio nome. Dai Setta, dai Ballerino, dai Rampante Bizzoso, su Cometa, su Cupido, su Tuono e Tempesta. La poesia di Moore incanta gli americani del XIX secolo. Dà vita a un nuovo tipo di Natale, né intemperante né religioso, ma incentrato sulla casa e sulla famiglia. Nei decenni seguenti gli artisti estendono le fantasie di Moore, ma è la sua visione originale a perdurare. Stephen Gillon, Università dell'Oklahoma. Una cosa interessante della poesia è che gli editori cambiarono l'ultimo verso. Nella versione originale di Moore era «Felice Natale a tutti e a tutti buonanotte». Oggi si legge «Buon Natale» invece di «Felice Natale». Per quanto il personaggio di Clement Clark Moore sia evocativo, non è ancora il Babbo Natale che conosciamo oggi. Non ha un laboratorio al Polo Nord, non ci sono gli elfi, non ci sono le lettere dei bambini e non c'è la lista di buoni e cattivi. Da dove vengono questi particolari? Il merito è di un altro newyorkese, l'illustratore Thomas Nest. Nest prende il Babbo Natale di Moore e realizza la versione definitiva per le generazioni a venire. Ancora Gillon. Thomas Nest è stato uno dei più grandi illustratori del XIX secolo. Molte immagini che vediamo oggi sono le sue. Fu lui a creare l'asino dei democratici e l'elefante dei repubblicani. Anche la figura dello zio Sam, che conosciamo, è una creazione di Thomas Nest. Ed è a lui che dobbiamo la versione moderna del nostro Babbo Natale. Nel 1862, una delle principali riviste americane, l'Harper's Weekly, commissiona a Nest le illustrazioni di Natale. E lui trasforma il vecchio folletto di Moore in un uomo grande e grosso. Edward O'Donnell, College of the Holy Cross. Lo trasformò in una specie di nonno, gli disegnò una bella barba bianca riproducendo il ritratto dell'opulenza del mondo vittoriano. Indossava un cappotto rosso con i bordi bianchi, stivali neri, cintura allacciata e fumava una pipa. La versione di Nest di Babbo Natale diventa indelebile e ogni anno si arricchisce di nuovi particolari. Ancora O'Donnell. Nest creò molti dettagli che oggi associamo a Babbo Natale. La lista di bambini buoni e cattivi, la casa al Polo Nord e quella figura è entrata nel nostro immaginario. Gli americani si innamorano subito del Babbo Natale di Nest e di Moore perché celebra l'infanzia. Solo di recente, sulla scia della rivoluzione industriale, i bambini iniziano ad essere considerati e rispettati come tali. A metà del XIX secolo, l'addobbo dell'albero, una variante dell'antica usanza nordica di portare il verde in casa, diventa il cuore del Natale americano incentrato sulla famiglia. Tutto grazie a un'immagine. Il 23 dicembre 1848, l'Illustrated London News pubblica una foto della regina Vittoria e del principe Alberto riuniti con la famiglia intorno all'albero di Natale, una tradizione legata alle origini tedesche di Alberto. L'Inghilterra se ne innamora immediatamente. Ancora O'Donnell. Due anni dopo, la stessa foto della regina Vittoria e del principe Alberto fu pubblicata su una rivista americana molto famosa con qualche modifica. Tolsero la corona alla regina Vittoria e i baffi al principe Alberto, in modo che sembrassero un po' più americani. Era un modo essenziale per dire agli americani del ceto medio che in fondo si trattava di una tradizione degna delle loro case. L'albero di Natale arriva ufficialmente in America. Nel 1856 il presidente Franklin Pierce ne porta uno alla Casa Bianca. La nuova immagine di un Babbo Natale amico dei bambini e l'albero decorato avviano un processo di modifica del Natale stesso. Una ricorrenza una volta dominata dagli eccessi, ora viene celebrata insieme alla famiglia. Ma all'alba del XX secolo, le tradizioni di questa festa cambiano ancora. Babbo Natale diventa uno sponsor e il Natale una miniera d'oro per i commercianti. Ma come ha fatto il Natale a diventare così commerciale? E perché lo tolleriamo? Anzi, ne siamo felici. Fin dalla metà del XIX secolo, il Natale è una benedizione per quei negozi che vendono articoli per le feste. Come carta da regalo, bigliettini di auguri, decorazioni e specialmente giocattoli. Edward O'Donnell, College of the Holy Cross. È stata la rivoluzione industriale. La chiave era produrre tantissimi oggetti economici che potessero far presa su un ceto medio che aveva i soldi per comprarseli. Non è difficile capire come Babbo Natale abbia fatto gioco ai commercianti. La prima volta che un grande magazzino usa Babbo Natale per vendere i suoi prodotti risale al 1840. Con il passare del tempo, Babbo Natale vende più che semplici prodotti. Diffonde il Natale stesso e la calda nostalgia che evoca. Nelle due guerre mondiali ricorda ai soldati quello per cui stanno combattendo e sostiene la beneficenza verso i meno fortunati. Diffonde l'idea del Natale come periodo di pace e buona volontà verso gli uomini. Nel 1940 il suo ruolo dominante di icona pubblicitaria gli vale un look tutto nuovo. L'artista Norman Rockwell reinterpreta il vecchio barbuto con il vestito rosso elaborato da Thomas Nest e lo porta nel XX secolo. Le copertine di Rockwell e i bigliettini di auguri mostrano un Babbo Natale grande e simpatico. Tutti gli altri seguiranno poi le sue orme. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. Oggi lo splendore delle illuminazioni e la televisione ci aiutano a scacciare le gelide buie notti invernali, così come i ceppi e i falò dello Yule facevano 1000 anni fa. Libby O'Connell, storica. È la gente che fa le feste. Le tradizioni sono tutte inventate, ma ci sono usanze antiche che si tramandano per secoli. Il significato più profondo è nelle nostre ossa. Lo sentiamo, lo percepiamo e quindi pensiamo: sì, queste sono le nostre tradizioni ed è così che voglio festeggiare. Fin da quando ne abbiamo memoria, facciamo l'albero di Natale, accendiamo le candele, appendiamo le calze e intoniamo i canti di Natale nelle chiese e nelle strade. Anche nella confusione, troviamo il tempo di gioire per la nascita di un bambino 2000 anni fa. Buon Natale a tutti.